E quindi sempre all'ascolto degli 87.9 andiamo ad iniziare questo redazionale di oggi. Come appunto annunciato, parleremo di decreto flussi. Allora, innanzitutto la parola decreto flussi, io neanche riesco. Una cosa su, capito, già una cosa che decreta, che mette delle leggi su il flusso, quindi anche una cosa in movimento, mi mette insomma un po' a cappone alla pelle. Spieghiamo un po' che vuol dire decreto flussi. Allora, in realtà il testo unico prevede il decreto flussi a seconda di una programmazione triennale delegata alla Presidenza del Consiglio, che dovrebbe, diciamo, di concerto con varie associazioni di settore, patronati, sindacati, eccetera, valutare la quantità di forza lavoro ogni anno da regolarizzare in Italia attraverso questa procedura. Quindi ogni anno, da diversi anni, la Presidenza del Consiglio segnala la quota dei cittadini extracomunitari che potranno beneficiare di un permesso di soggiorno. Quest'anno, come gli altri anni, non è cambiato molto, a parte dei dati tecnici di cui poi direttamente i datori di lavoro beneficeranno attraverso la procedura informatizzata. La quota è prevista per l'assegnazione di quasi 100.000 permessi di soggiorno, sarà divisa in tre giornate, questi famosi click day, per cui la prima giornata sarà dedicata ai lavoratori provenienti dalle nazionalità cosiddette privilegiate. Privilegiate perché hanno con l'Italia degli accordi finalizzati alla, a parte economici, ma quelli di regolamentazione flussi e di le procedure cosiddette di riammissione, cioè di deportazione. Il secondo giorno, il 2 febbraio. E chi sono questi paesi? Vabbè, ovviamente. Se vuoi te li elenco. Ah, qualcuno sì, perché no? Allora, il Bangladesh, l'Albania, l'Algeria, l'Egitto, le Filippine, i Ghanesi, cioè la Ghana. Il Marocco, già l'ho detto? Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Tunisia, India, Perù, Ucraina, Niger, Gambia e basta, dovrebbero essere questi. E alcuni sono segnalati, però non sono indicati, come quelli che stanno per ottenere questi accordi internazionali di riammissione o di scelta dei flussi migratori. Quindi, dicevo, il secondo giorno invece è dedicato al permessi di soggiorno per colf e badanti e non sono segnalati i paesi, quindi si dà una quota specifica a questo tipo di permesso di soggiorno, quindi segnalando la modalità, cioè della prestazione di lavoro, ma non il paese. E poi il terzo giorno è dedicato agli altri permessi di soggiorno, cioè ai paesi non privilegiati e a tutti quei permessi di soggiorno che, come spesso si dimentica, per esempio un cittadino straniero che sta qui, cresce in Italia, giovane, ottiene un permesso di soggiorno per motivi di studio, al compimento degli studi non ha diritto alla conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, pur ottenendo un contratto, ma deve rientrare nelle quote. Quindi questa parte di quote, il terzo giorno, è dedicata anche a loro. Oppure a quelle che rientrano nelle quote, che vuol dire? Cioè, che è possibile che non rientri. Ci sia, che ci sono delle percentuali dedicate a questo. È possibile che dopo questo, essere stato in Italia, aver studiato in Italia, avere la famiglia in Italia, eccetera, non ha diritto a regolarizzarsi, insomma. Cioè, se ne deve andare. Beh, considerando che innanzitutto questo spazio radiofonico è anche un po' per far chiarezza fra noi compagni e compagni rispetto a cose che forse sono più costrette le persone migranti a conoscere e noi comunque nel nostro privilegio evitiamo di capire. Quindi sempre per essere anche un po' più utili tecnicamente, dato che sono state fatte diverse assemblee in città che cercavano di spiegare poi chi in effetti poteva rientrare in questo decreto flussi, sarebbe buono ripetercelo anche in previsione di questo click day. Sì, allora bisogna tenere a mente che questa non è una sanatoria, Ma è una procedura per cui il cittadino straniero dovrebbe stare all'estero, cioè è una procedura che attiva il datore di lavoro. Allora, quindi diciamo tecnicamente è così: il datore di lavoro attiva la procedura in internet, la prefettura analizza la domanda, invia alla questura e alla direzione provinciale del lavoro tutti i dati. Se il cittadino rientra sia per requisiti sia perché è riuscito a mettersi in coda nel click day e rientra nelle quote, ottiene un nulla osta, il datore di lavoro è titolare di questa procedura, ottiene il nulla osta per far entrare il cittadino straniero. Questo nulla osta va inviato alla rappresentanza diplomatica italiana del paese di provenienza del cittadino, il quale entro 6 mesi deve chiedere il rilascio del visto d'ingresso. Una volta ottenuto il visto d'ingresso, compra il biglietto aereo, o insomma come arriva in Italia e entro 8 giorni chiede il permesso di soggiorno. Prima stipula il contratto di lavoro insieme al datore e poi chiede il permesso di soggiorno. E allora lì poi cominciano le verifiche, a parte quelle che già ci sono state precedentemente sui requisiti del datore, per esempio di reddito, eccetera. Cominciano quelle personali. Allora spesso, poiché questa procedura camuffa solamente una sanatoria, perché il più delle volte il cittadino è già in Italia, c'è stato da 10 anni, 15 anni, 20 anni, magari praticamente ha vissuto sempre in Italia, che succede? Che magari è stato destinatario di un provvedimento di espulsione e manco se lo ricorda, magari col divieto di ringresso per 10 anni più delle volte, perché dal 2002 che ci sta il divieto di ringresso, a parte un piccolo periodo in cui era rientrato in vigore i 5 anni di divieto d'ingresso. Anche perché questa questione legata anche alla memoria dei provvedimenti di espulsione e dei fogli di via è molto legato anche al discorso che sono poi fogli di carta scritti in italiano, e quindi spesso anche la comprensione di un testo che va comunque a indicarti come una persona rifiutata da quel paese è di difficile comprensione da chi poi è appena arrivato anche in Italia. Sì, infatti sono magari spesso sono anche tradotti, perché poi a un certo punto è entrata anche questa normativa per cui dovevano essere tradotti, però ecco, è una cosa che comunque dovrebbe essere impugnata, quindi fatta valere dinanzi a un giudice, magari non lo è stato, magari il cittadino non parla le 3 lingue della comunità europea, voglio dire, ce ne sono tanti dei motivi, oppure appunto è un pezzo di carta per cui gli hanno dato l'intimazione a lasciare il territorio, ha ben pensato magari in quel momento di disfarsene perché la paura e quindi niente, si trova magari a aver fatto tutta sta procedura, per non parlare dei soldi quello che spese, perché è dubito che il datore di lavoro da solo spenda tutti questi soldi, insomma. Primo questo, e secondo se dividono in due secondo me i datori di lavoro, da un lato c'è quello che è il commiserevole, aiuta, no? Si mette in questa posizione di padrone, insomma. Dall'altro c'è pure l'avvoltoio, che quindi non solo sfrutta il lavoratore magari per 10 anni col lavoro in nero sommerso, ma quando ci sono questi decreti flussi o le sanatorie eccetera, sfrutta ulteriormente chiedendo denaro per la regolarizzazione. Certo. E se ne sentono tante delle storie, non è una mia opinione, insomma è un dato di fatto. E poi niente, dicevamo quindi che tutto questo a procedura potrebbe anche non ottenere un esito positivo, perché magari appunto quando si vanno a fare le impronte per rilasciare il permesso di soggiorno, se verificano quei dati incrociati, ammettiamo hai avuto un'espulsione con un nome diverso, oppure hai avuto un'espulsione senza accompagnamento alla frontiera, pertanto non ti sei neanche reso conto di aver avuto quel tipo di provvedimento, praticamente ti vai a autodenunciare, perché non solo non hai ottenuto il permesso di soggiorno, ma sei passibile della denuncia penale del evasione, mancato allontanamento nei 15 giorni e il divieto di reingresso, che insomma è un reato penale da 1 a 4 anni, non è un gioco. Abbiamo affrontato il discorso dell'autodenuncia anche rispetto a quella che ormai chiamiamo sanatoria truffa, no? E possiamo differenziare queste due cose per cercarle un po' di inquadrare meglio. Insomma, dicevi che questo decreto flussi comunque dovrebbe riguardare persone che non sono sul suolo nazionale e che attraverso l'ambasciata italiana nei propri paesi dovrebbero attivare queste pratiche tra ambasciata italiana, datore di lavoro, e quindi anche questa posizione, diciamo, abbastanza fondamentale dell'ambasciata italiana, di quanto poi i funzionari stessi dovrebbero provvedere a questo inserimento nel decreto flussi, diciamo che ha anche un qualcosa di oscuro, perché non essendo poi visibile, tangibile l'operato dei funzionari delle ambasciate, ovviamente è molto basato sulla buona fede di un funzionario e di quelli che sono poi i rapporti con i governi. E mentre la sanatoria comunque dovrebbe riguardare persone che sono sul suolo italiano e che comunque intendono regolarizzarsi. E spesso abbiamo parlato del decreto flussi proprio come un qualcosa che rispondesse solamente alle logiche del mercato, ovvero qualcosa che quando c'è la necessità un paese come l'Italia chiama a sé gente che comunque da schiavizzare e gente da sfruttare per poi dare questi permessi temporanei che sono molto legati alle esigenze lavorative. È l'unica lettura che possiamo dare del decreto flussi soltanto in termini economici oppure di un maggiore ricatto? Beh, sicuramente se si legge il dato normativo esso si fonda proprio sulle esigenze di mercato, appunto sulla base di questo documento programmatico triennale. In realtà adesso hanno pure tentato di modificare questa cosa delegando esclusivamente alla Presidenza del Consiglio la determinazione dei flussi, quindi c'è anche questa cosa ulteriore. Comunque, secondo me, a parte appunto l'esigenza di mercato, che potrebbe anche essere vera, nel senso che ci sono dei dati, dei tavoli per cui sindacati, patronati si confrontano rispetto alle esigenze territoriali di ciascun settore, dall'edilizia all'agricoltura eccetera, però di fatto poi i 100.000 permessi di soggiorno regalati ogni anno non fanno fronte ai flussi migratori effettivi, cioè quelli sommersi e quelli clandestini, che comunque sono non solo alimentati da appunto da questo sistema di sfruttamento delle risorse nei paesi di provenienza, no? Che poi rende praticamente schiave questi individui che da soli si trasferiscono nei paesi dove verranno sfruttati. Cioè, a mio avviso, praticamente c'è anche un dato, che è quello che questi se so addirittura scontati tutta la spesa del trasporto del viaggio. Cioè, io immagino, no? Nel primo colonialismo c'era la spesa del trasporto degli schiavi, cioè questi adesso manco quello pagano più, perché cioè praticamente è un meccanismo per cui questi arrivano da soli. Allora il fatto che si determinino dei flussi numerici dei 100.000 persone all'anno non è un dato reale, nel senso che l'esigenza del mercato è ben altra e diciamo coloro che fanno, che sfruttano effettivamente i flussi migratori so altri personaggi. Cioè, in realtà le esigenze vengono appunto coperte da tutta questa immigrazione clandestina che è ricattabile, che appunto viene sfruttata nei campi, nei settori dell'edilizia, che non ha. Quindi, insomma, è una sorta di calmiere, secondo me, pure per determinare una differenza, no? La perdita pure di consapevolezza del proprio sfruttamento. Quindi calma 100.000 persone rispetto a tante altre, crea una diversificazione, no? Tra buoni e cattivi. Dove il buono è il lavoratore che è stato, insomma, vittima di tutto questo circuito di flussi regolari, e dove il clandestino viene considerato quello che in maniera viene qua per fare il criminale, essenzialmente. Sì, esatto, e poi c'è anche questo che spesso anche chi si regolarizza soffre, cioè perde la propria dignità rispetto alle proprie rivendicazioni, rispetto a... Beh, c'è una ricattabilità, perché deve anche dar grazie, capito? Paradossalmente più anche, certe volte più alta di chi... Uno strumento di educazione, no? Rispetto a... cioè proprio fatta apposta per... che tutto sia concesso in base al comportamento, in base alla prova della tua fedeltà, no? Rispetto... E invece, vabbè, comunque, tornando al dato tecnico, la differenza con la sanatoria, vabbè, fotografa un dato reale, è una situazione di irregolarità rispetto a determinati tipi di lavoro, per esempio come è stato col Febadanzi nel 2009. È la fotografia della realtà e pone dei requisiti, per cui, che ne so, requisiti di reddito rispetto al datore di lavoro, requisiti dello straniero, per esempio, che non abbia reati, eccetera. Ne sono state tante dei sanatorie, tutte diverse. L'ultima, appunto, la conosciamo, quella delle Golfe Badanti. Quindi è più che altro un dato reale. Anche lì io ci avrei i miei... cioè, insomma, un po' ci ho ragionato sulla sanatoria del 2009 e sembrava proprio... un contentino rispetto a tutte queste famiglie di sfruttatori del lavoro sommerso che non potevano essere diciamo tacciate di qualsiasi reato di sfruttamento dell'immigrazione clandestina, quindi si sono ben aiutati tra di loro, perché spesso sono gli stessi che fanno le leggi, che avevano gente dentro casa in nero, e quindi si sono autoregolamentati loro più che altro. Certo. No? Rispetto a... Certo. Facciamo una brevissima pausa musicale e poi riprendiamo. To find me a solution. Wadena, il hombre zakerna apartheid. O Nelson Mandela, Ali Nawar Gandhi mshrah yisaidna fala kulla lil hubhub. Wissalam, kif itkom taayesh tarma wala wahed aayesh bahu binfaish. Akhod karar, kif itkonish danti wana lisatni mish raja ardi illi abni fiha dahar. بديش امد جاي قد فراشي بدي اكبر فراشي ليوصل كل عيلتي كسر طول اجري ولساتني ماشي سكر طول عيني ولساتني شايف والخوف من القدر والخوف ملجا من خطر والخوف من القدر والخوف ملجا من خطر واحد اللي يحارب على شان اي زي انسان بتشتت بس ولا اشي هدي هذا الاشي بس بسقي شجر التمرد ولما تطلع عليها بتشوف طريق حرية اللي فيها راح نطلع كتير جبال اللي واحنا عليهم نشوف وراهم كم كم كم مانش جبال عشان نغير وضع لازم عشان يكون انقلاب عشان يكون انقلاب لازم نخاطر لازم نخاطر نبني جيل جديد انقلاب نبني جيل جديد انقلاب نبني جيل جديد انقلاب عشان نغير وضع انقلاب نبني غير انقلاب مخيمات لاجئين Solution. رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم كل السفن تفوتنا تارك الحزن يغرق قلوبنا راضي نكون ضيوف الظلم ببيوتنا والآية انقلبت كمان مرة صرنا ضيوف اللي غير مرغوب فينا مكتوب لنا نضلنا راب على أرضنا بعاد وطننا مين يهم مهمنا مطمطي يشرب دمنا حكمنا حكم صهيوني ديمقراطي ديمقراطي للنفس الصهيونية وصهيوني للنفس العربية يعني الممنوع لو ممنوع للمسموح لو ممنوع للمسموح لمكروه لي لأنه ينكر كياني محى ومازال يمحي ألوان تاريخ ناس جدادي يغسل دماغ ولاد التوعى حاضر ما يمثلها جنسية زرقن بلا ونشرب ميتها طولنا ان احنا من الشعب والشعب حسسنا ان احنا غربة انا غريب في بلادي فنانا همسات سبانا إشارات أرضانا أهرانا ناس النجدادنا أسس المباني وإخواننا ما زال عمره أساسا وأساس صار بالمسجد والدير وأخيرها ناس من بلاد غير صرخني ترانسفير. Allora torniamo in diretta, continuiamo a parlare di decreto flussi e a sviscerare un po' di questioni tecniche che però hanno anche un significato politico forte e che non sono molto chiare ai più, cioè magari sono chiare per le persone che la vivono sulla propria pelle, per le persone immigrate, ma non per tutti, anche chi ha una coscienza antirazzista spesso in questi giorni legge dei titoli piuttosto sensazionalistici sulle prime pagine dei giornali che parlano appunto della diatriba, delle differenti interpretazioni che le procure, i giudici fanno rispetto a quella che è stata l'approvazione dell'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato, il cosiddetto reato di clandestinità, e che ha un suo peso rispetto a quelle che sono le procedure per accedere alla regolarizzazione, quindi sanatoria e decreto flussi di cui stiamo parlando, e soprattutto come appunto il fatto di aver ricevuto un decreto di espulsione in passato rappresenta una causa ostativa per le persone che vogliono accedere al decreto flussi. Tutto questo viene complicato da una normativa europea che era stata approvata già da tempo e che a cui l'Italia avrebbe dovuto adeguarsi entro il 24 dicembre del 2010, quindi giusto un mese fa, cosa che l'Italia sta facendo come al suo solito in una maniera completamente disorganica e diversa a seconda dei giudici che si trovano a decidere della vita e della appunto libertà di movimento delle persone. Quindi vogliamo cercare di fare chiarezza su questi termini e di spiegare prima di tutto che cos'è un decreto di espulsione, che cos'è il reato di clandestinità e cosa significa per una persona, cioè quando si riceve il decreto di espulsione la persona viene accompagnata alla frontiera oppure all'ordine di abbandonare a sue spese il territorio nazionale prima di tutto, no? Certo, sì, intanto volevo premettere che con l'entrata appunto in vigore, diciamo così, perché tecnicamente non è neanche esatto, della direttiva, cioè della scadenza termine rispetto al recepimento, dell'obbligo del recepimento da parte dell'Italia di questa direttiva, in pratica appunto in ossequio a una determinata giurisprudenza per cui ciò che non viene recepito nei termini e sia sufficientemente dettagliato non può che non essere fonte di diritto nel sistema di ciascun paese membro della Comunità Europea. Questo vuol dire che tutto il sistema del testo unico dell'immigrazione diciamo non ha più una certezza, nel senso che la direttiva europea pone dei limiti, diciamo, per esempio nel caso che ci riguarda, più specifico del divieto di reingresso, lo impone fino a un termine ultimo, un limite di 5 anni di divieto, invece il testo unico ne prevedeva 10. Quindi già qui possiamo capire come interagisce col, per esempio con la normativa del decreto flussi, perché qualora il cittadino che volesse fare ingresso in Italia attraverso questa procedura si ritrova già un provvedimento d'espulsione con divieto di reingresso per 10 anni, e siano trascorsi per esempio 6 anni, ammettiamo, facciamo un esempio, potrebbe in teoria chiedere la revoca di quel provvedimento sulla base dell'illegittimità rispetto all'odierna normativa, anche se pure là si discute se l'atto amministrativo sia, se l'atto amministrativo sia diciamo collegato alla legge del tempo in cui è stato emesso oppure della legge più favorevole successiva. Vabbè, insomma, c'è un dibattito aperto che ovviamente rende anche le istituzioni a dare una risposta ambigua rispetto a questa tematica. Mi chiedevate del reato, per esempio, di divieto di non aver ottemperato all'allontanamento rispetto al provvedimento d'espulsione e al provvedimento del questore d'allontanamento. Anche qua ci sono seri dubbi, infatti molti tribunali assolvono dal reato proprio sulla insussistenza del fatto di reato, proprio perché la Comunità Europea in questa direttiva prevede tutt'altra normativa. Quindi ci si trova di fronte veramente a una, intanto un vuoto normativo determinato dalla mancanza del recepimento, e sull'ambiguità se questa direttiva comunitaria sia effettivamente fonte di diritto e quindi un obbligo da parte delle, non solo dei giudici di applicarla, che quella già di disapplicare la normativa interna in contrasto, e quello già è pacifico. Infatti vediamo, osserviamo tutte queste sentenze d'assoluzione rispetto ai reati dell'articolo 14 del testo unico, ma anche dell'amministrazione, che in realtà in qualche modo si è posizionata emettendo una circolare a dicembre e prevedendo determinate indicazioni rispetto ai propri uffici di emanare dei decreti d'espulsione che non siano passibili di declaratoria di illegittimità. Cioè, quindi invece di non che ci si aspettasse qualcosa di diverso, comunque invece di indicare magari delle novità normative e quindi rendersi conto della effettiva novità dell'applicazione della nuova normativa, ha imposto ai propri uffici, indicato ai propri uffici come emettere un decreto d'espulsione che non sia passibile di annullamento. Ecco, insomma, cioè, trovano sempre un modo alla fine, sì, per incastrare veramente le persone, e questo ovviamente non fa che mettere le persone immigrate ancora in una maggiore condizione di ricattabilità, perché sono soggette alla discrezionalità del giudice o della questura che si occupa appunto di decidere della loro vita. Ora abbiamo ancora tante cose da dire sul decreto flussi, poi ti chiederemo anche di spiegarci che cosa questa direttiva comporta anche per chi è rinchiuso nei CIE o in carcere, però magari adesso interrompiamo un attimo il discorso perché ci arrivano degli aggiornamenti da l'occupazione dei Rom di questa mattina a Tor Cervara. Sì, sembra che siano arrivati blindati e stiano per sgomberare i blocchi che volevano ostacolare l'arrivo della polizia. Adesso facciamo una brevissima pausa musicale, ci andiamo a mettere in contatto con un compagno lì presente che ci può raccontare un attimo la situazione di tensione lì e magari nel caso convergere in maniera rapida lì. Va bene, allora musica. Zulon, Kulbiani Minno. الامريكان تظلم العرب الصهاينة يظلم العرب تعرف ايش يا عربي اذا بتظلم غيرك غيرنا بظلمنا اي هاي الكلمات لكل إمياتنا وأخواتنا اللي تايهات بين عادات جهل وتقاليد تافهة الكل شافها بس مين دافع بس انا واحد يطلع حس يعني هاي إلك وين ما تكوني مسجونة مهضومة من أحلامك محرومة. ارفعي راسك لفوق يا أختي ارفعي راسك لفوق بس لو واحد يطلع حس بكاء بلا صوت من ماسحة الدموع قد ما عيونها تفتح مداها سياج الممنوع قلتها ممنوع لي ممنوع لها مسموح لي ممنوع لها والمسموح لها فيش كلمة هيك في قاموسها طائفنا عاجرين اللي تدوس حقوقها يوم ورا يوم تعيد نفس اليوم الأولى بالأم والأخيرة بالنوم هذا مني إلك يا امرأة يا أم البيت مني أنا الرجل اللي بس بنيلك فيه حيط لسجن الحريم الحيطان وما تتيسر للرواية التاريخية اللي ما تتحضر من وقت وقت البنات من وقت ختان الشهوة لوقت وقت الرأي ولوقت ختان الشهوة فريسة لما ضعيفة ايش تحكي لحالها بعذاب تسعة أشهر وإحنا بنطلع نبكي ارجع للسيرة بصمات آدم على الجريمة وصابع الاتهام على حواء غريبة غريب أكتر إنه إحنا منعين الحرية عن الأنثى والحرية نفسها أنثى الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس Allora, torniamo in diretta, siamo in collegamento con un compagno che è lì presente all'occupazione a Via di Tor Cervara. Abbiamo parlato durante tutta la mattinata di questa occupazione, abbiamo già dato insomma notizia di convergere per portare solidarietà a chi sta vivendo uno sgombero da parte delle forze dell'ordine. E ci puoi aggiornare su quella che è la situazione lì? Sì, intanto la via è via Raffaele Costi, esattamente, perché è molto difficile da raggiungere. Comunque la situazione è questa: ci sono i rom che hanno occupato questa mattina, che vengono dal Camping River, immagino ne abbiate parlato, che sono dentro la palazzina e sono sul tetto, no? Sono sul tetto in questo momento, sì, tutti quanti con gli striscioni con scritto Alemanno Bugiardo dove sono le case, no baracche, no campi, no container. E in questo momento ci sta la polizia qui fuori con polizia e carabinieri, camionette in assetto antisommossa e stanno aspettando il via. Ci sono diverse persone di associazioni e compagni che si trovano davanti a fare una sorta di interposizione, però i numeri sono per il momento bassi. E in questo momento proprio ci sono delle gru che ha portato proprio la polizia, che stanno togliendo i blocchi di cemento che bloccano l'ingresso, probabilmente per far entrare i blindati dentro. Ho capito, quindi la prefettura ha rifiutato ovviamente qualsiasi la prefettura ha rifiutato perché il piano nomadi va avanti, loro rientrano nel piano nomadi, ricordiamoci loro erano i principali interlocutori di Alemanno quando fu chiuso il casilino 900, sono le stesse persone, a loro erano state promesse case, sono state sistemate in campi pazzeschi, in container fuori dalla città senza alcun servizio e quindi non avendo mantenuto la promessa hanno deciso di fare questa azione, cioè di lasciare i container del comune per andare a occupare questo palazzo. Quindi allora, oltre ovviamente a questo aggiornamento e all'invito di raggiungere via Raffaele Costi per insomma portare forza a quello che è un presidio di solidarietà che si sta vivendo lo sgombero, e ovviamente appunto mettendo il puntino come al solito su quelli che sono i tavoli di interlocuzione con chi amministra la città, che spesso si rivelano insomma una faccia di quella democrazia che non ha nulla di umano. Invitiamo tutte e tutti a raggiungere i compagni e le persone che stanno, insomma sentiamo le grida, la situazione penso che sia abbastanza tesa e quindi per qualsiasi aggiornamento i microfoni sono aperti e ci chiamiamo appena cambiano le situazioni. Va bene, ti ringraziamo, ciao, un saluto. Noch dem Bundestag gefiel, gab es wirklich mal in unserem Staat das Grundrecht auf Asyl. 93, Änderung der Gesetze, Änderung der Grundrechte und Rechte, Menschenherzen vom besten Deutschland bis hin in den Nordblock. Ho, ho, bombardieren Rostock. Ho, ho, bombardieren Rostock. Wo seid ihr jetzt? Es wird weiter gehetzt. Europa, geschlossene Festung, die Mauer so hoch, abgeschottete Festung, militärisch sich sichern sie die Grenzen ab. WGL täglich auf Menschenjagd. Rein darf nur wirtschaftlich verwertbare Ware. Sortiert nach Nützlichkeit, Menschen werden zur Ware. BRD Asyl leist in Baracken zu nehmen. Und der deutsche Mob steht mit Brandfackeln daneben. Erst Bullenschikane ohne Rücksicht zu nehmen. Dann Zwangsausreise zurück in das Elend. Also Partisanen, es ist immer noch das Beste. Sprengt alle motherfucking Abschiebekneste. No border, no nation, stop deportation. Solidarität muss praktisch werden. No nation, no border, fight law in order. Feuer und Flamme, den Abschiebebehörden. No border, no nation, stop deportation. Solidarität muss praktisch werden. No nation, no border, fight law in order. Feuer und Flamme, ja, den Abschiebebehörden. Ein nationaler Politiker, ich schreib, pack diesen Sack. Schick den Spinner mal ins Innere von einem Abschiebeknast. Werd ihn ein, ohne dass sie ihn sich verabschieden lassen von seiner Familie, so wie man das mit Maske. Ich bin einer der wenigen Flieger auf einer aktiven Nacht. Mein Kampf bedeutet, dass ich kontra über den Takt fliegen lasse. Ich höre stetig nur Themen. E allora, per chi volesse raggiungere e sostenere la nuova occupazione di 160 Rom sgomberati dal Casilino 900 che stamattina hanno occupato uno stabile in via Raffaele Costi, spieghiamo, ricordiamo che lo stabile si trova all'altezza dell'uscita Torcervara dell'autostrada Roma-L'Aquila, quindi appunto via Raffaele Costi. In questo momento l'occupazione è sotto sgombero, quindi rinnoviamo l'invito che ci arriva dai compagni e le compagne che si trovano lì a raggiungere l'occupazione e a sostenere le persone che lì stanno lottando per il loro diritto alla casa. Vor dem Leid, das sie erzeugen und sich leiten, Touren beugen, kann nur Scheiße im so bedeuten. Und nütze Migranten sind vom Staat nicht gewollt, denn in Schwarz-Rot-Gold ist gerade das Brot voll. Und nütze Migranten sitzen in Abschiebehaft und der Staat schiebt sie ab. Schweigen ist akzeptant, darum kämpfe ich verbal. Kein Mensch ist illegal. No border, no nation, stop deportation. Bringt alle Abschiebeknäste. No border, border, no nation, stop, stop deportation. Stop deportation. No border, no nation, stop deportation. Solidarität muss praktisch werden. No nation, no border, fight law and order. Feuer und Flamme, den Abschiebebehörden. No border, no nation, stop deportation. Solidarität muss praktisch werden. No nation, no border, fight law and order. Feuer und Flamme, den Abschiebebehörden. E ora torniamo invece in diretta per continuare a parlare di decreto flussi e in particolare, prima che ci interrompesse la telefonata sullo sgombero, stavamo parlando dell'applicazione in Italia di questa nuova direttiva europea a cui appunto l'Italia avrebbe dovuto adeguarsi ma non è stata recepita, quindi come al solito ci sono problemi nell'applicazione, differenze da giudice a giudice, da questore a questore, però quello che volevamo cercare di capire è se questa direttiva introduce delle novità anche per quanto riguarda le condizioni delle persone recluse nei centri di identificazione ed espulsione, i CIE. Sì, in realtà la direttiva privilegia in un certo modo l'allontanamento delle persone in modo graduale e prima di tutto spontaneo. Quindi la normativa in vigore oggi in Italia, che prevede l'allontanamento coattivo o diciamo quello entro i 15 giorni, insomma, con a proprie spese, sarebbe totalmente disapplicabile. Quindi anche il provvedimento, per capirci, il trattenimento a Ponte Galeria è giustificato sulla base del provvedimento questorile di allontanamento. Sulla base dell'allontanamento coattivo, poi, se la questura non ha le forze e la capacità di allontanare immediatamente lo straniero per tre motivi: la mancanza di veicoli, la non identificazione o ce n'è un altro, come sfugge, può trattenerlo, può in un certo senso, come fosse una, trasformare questo ordine di allontanamento coattivo in trattenimento presso il centro di identificazione e espulsione. Quindi la giustificazione legale, diciamo così, se vogliamo parlare in senso tecnico, del trattenimento è questo decreto questorile. Ma se il decreto questorile si fonda su presupposti di legge erronei, falsi o illegittimi, di conseguenza anche il trattenimento lo diventa. Allora, se è vero che la legge va applicata, come ci insegnano, in teoria, anzi in pratica, queste persone sono trattenute illegittimamente dentro ste gabbie e quindi dovrebbero a questo punto, su istanza di parte, cioè loro stessi o i propri legali, dovrebbero avanzare istanza di libertà sul presupposto della legittimità del trattenimento e quindi poter uscire definitivamente da quel recinto. Quindi invito, se qualcuno ci sta ascoltando, ad attivare questa procedura. Ecco, la cosa assurda è che purtroppo sono le singole persone che devono attivare questa procedura e che non avvenga automaticamente. Credo di sì, adesso mi è venuta spontanea, ma credo di sì, perché nella sì, a distanza dell'interessato, direi. Però, insomma, quello che ci stai perché dicendo... automaticamente, ovviamente, figuriamoci, già non le stanno applicando, figurati se... No, poi con quello che ci guadagnano tenendo le persone rinchiuse dentro a Ponte Galeria e agli altri CIE, però insomma da quello che ci dici si dovrebbero svuotare tutte le gabbie. Con la speranza ovviamente che qualcuno ci stia ascoltando, speranza che purtroppo è sempre più insomma ineffettiva, proprio perché gli unici strumenti di comunicazione dall'esterno all'interno che sono stati per adesso accordati a Ponte Galeria sono appunto le televisioni, roba che di consigli su come uscire fuori dalle gabbie di sicuro la televisione non si occupa di dare questo tipo di informazioni, quindi ovviamente sarà il caso di attivare quella comunicazione fra solidali e persone rinchiuse, o anche attraverso le persone, gli avvocati che possono entrare in quelle gabbie e iniziare a far circolare questa notizia. Poi ovviamente in preparazione c'è anche un presidio fuori da quelle mura, si ritornerà molto a breve lì davanti proprio per insomma mettere in crisi questo concetto di normalizzazione dei CIE, roba che viene anche minacciata appunto tutto quello che abbiamo detto finora, e quindi che deve essere minacciata anche ovviamente dalla rabbia di chi non li vuole nella propria città, posti del genere. Certo, e su questo insomma sicuramente continueremo a parlare dai microfoni della radio quando avremo magari una data, un appuntamento, però comunque continuiamo a ricordare che è importante, nonostante il tentativo istituzionale sia quello di rendere i CIE dei luoghi sempre più isolati e invisibili, per noi è importante continuare a parlarne, continuare a raccontare quello che succede là dentro, ma anche sapere che insomma in città c'è qualcuno che continua a mobilitarsi nonostante la repressione colpisca chi si attiva contro i CIE, e invece è necessario far sentire una voce forte che appunto reclami la chiusura definitiva di questi luoghi e non lasciare isolate né le persone che lottano all'interno né quelle che si mobilitano al di fuori. E va bene, allora continuiamo a parlare di decreto flussi, sempre con una piccolissima pausa musicale, e poi passiamo al prossimo aspetto. Prisonnière de la leur, quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs. Tcha tcha, où les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai J'ai ma liberté qui m'attend juste devant. Je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3. Tiens tout le monde. Allez, pas le temps, bon blabla. Je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sortie. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir. Alors je me barre. Besoin d'aller respirer au part. Ici, on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi, j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre. Tcha tcha, le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Je me barre. Tcha tcha, le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Toujours en train d'improviser à chacune de mes courses. Dans les bras de la liberté, un pack contrôleur à mes trousses. Porté par le vent, allez dire aux uniformes sous les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. J'ai rien à craindre, percé par le chant de la lune. La chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides. Fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe. Allora, siamo in realtà giunte, perché una composizione femminile quest'oggi in radio, siamo arrivati a dover chiudere questo spazio, sperando ovviamente di essere riusciti a chiarire un po' di aspetti. Ricordiamo che insomma lunedì questo famoso click day, ormai qualsiasi cosa è day, sono state immaginate queste formule in cui non si capisce bene che cosa avviene, però succede qualcosa. E sappiamo tra l'altro che più o meno le persone migranti hanno destinato ai diversi CAF quello che sarà questa procedura telematica di richiesta, un gioco macabro, come l'abbiamo spesso chiamato da questi microfoni, quello di insomma una corsa al click, quindi alla speranza in un futuro migliore, ovviamente immaginando che poi ovviamente nel contempo queste persone continueranno a lavorare anche lunedì mattina, mentre il loro destino sarà legato alla rete internet, continueranno a lavorare da sfruttate in questo paese. Noi ovviamente ringraziamo la compagna che ci è venuta a trovare e ha cercato di darci un paio di chiarimenti che possono servirci per capire quello che succede intorno. Ti lascio la parola se vuoi aggiungere qualcosa, o altrimenti ti salutiamo alla prossima. Io volevo solo ribadire che comunque questo sistema di controllo dell'ingresso, diciamo, regolare dei cittadini stranieri, in questo caso lavoratori, mi sembra uno strumento molto utile al dominio per comunque riuscire anche a sedare in via preventiva una situazione di possibile rivolta legittima rispetto allo sfruttamento di queste persone, sia nei campi, sia nei cantieri, sia, insomma, nelle città e ovunque. Quindi, diciamo, ritorna utile a perpetrare, insomma, lo stato di cose, insomma. E va bene, allora noi ti ringraziamo davvero molto per tutte le informazioni che ci hai dato, e appunto condividiamo in pieno questa lettura che dai, perché come sempre questi decreti non fanno altro che decidere sulla possibilità per le persone di scegliere in quale parte del mondo vivere e appunto quali diritti reclamare, ma soprattutto alla fine quali forme di sfruttamento subire. Purtroppo dobbiamo chiudere qui, ti ringraziamo ancora per le informazioni e ancora un po' di musica e poi il prossimo spazio redazionale di questa mattina del sabato di Radio Onda Rossa.